ce ne sono su 10. Hola. Adesso si compri il circuito della Sardegna. Circuito canale 10. Hola. E poi grillo, questa c'è la pasta che è pronta. E la carica, vabbè. Ui, bianco. E beh, quello è. Cosa c'è con me? Qui stavo. Stavo guardando per l'acquario. Stavo guardando quei pesci, mi ha tolto pure. E c'entra quella lì. Hai visto? Io ne ho uno che ha la coda a ventaglio lunga lunga, divisa in due cazzo. Non se l'ha tre vende, è piccolo ma ha la coda bellissima. E quella me la dà a me. E la sai me tu? Quello lì è un maschio e non ho tempo per fare la riproduzione. Ah, sì, vabbè, dai. Adesso prossimo vado a tornare e mi prendo un paio ancora. Ma come non li devi pigliare più? Cosa ti devi prendere? Ah? E cosa ti devi prendere? Vedi cosa, lì c'è da arrivare altre cose, boh. Ma il cinese? Sì, lì c'è da prendere altri pesci. Adesso non si sa che cazzo di pesci doveva portare. Con l'acqua gialla, cazzo, ma chi lo vi la giamma chi sei? Ragazzi, ne sono qui. Ma non si possono ottenere i pesci con l'acqua lì, cazzo. Io come l'ho visto, tre cose che sanno, non si vede manco i pesci, tutto buio, tutto scuro, non è accesa la luce, boh. Ma secondo me non andiamo ancora un filtro, ma cazzo per diventare gialla così secondo me non c'è il filtro. Cosa ne so, c'è famiglia quella cazzo è brutta. Però io non ho acqua così, non ne ho mai avuto in vita mia. Ma ne manchi io, anche questa è la prima volta che metto i pesci tropicali, perché di solito avevo sempre pesci rossi con 100 litri. E però acqua così era sempre bella pulita l'acqua. Acqua gialla non l'ho mai avuto. Oh, pure i rossi sono belli, ma crescono bene, sono carpai quelli rossi. Sono della famiglia delle carpe. E questi che c'avevo qua, che cosa c'è? Un paio di mesi che l'avevo, senza i carquari. Cazzo, erano diventati sempre più manni. Cazzo, cosa devo farmi? Lula venne, no? Allora, quelli che ti ha dato sono di quelle cappe che si mettono nei laghetti che ci sono nelle ville, capito? In quei laghetti così, perché diventano un bel grandi, capito? Io ne ho visto l'allevamento di quelle cappe, sono enormi, ce ne sono anche da 3 kg e roba del genere, diventano un bel grandi. Io già le ho viste, infatti questo qui fa, e io a me mi piacciono questi così, le calpe, sono calpe, queste sono calpe, però questo laghetto non è, aveva un acquario, di 100 litri sono calpe, cazzo deve fare tutti i ratai. 100 litri? E allora tra poco le deve dare perché non ci stanno più. Appunto, a parte che erano già grandi quando li ho dati io, cazzo siamo stati 10 centimetri, tutti e due. Erano due rossi e uno grigio con cenere rimane qua, belli, eh. Aspetta che c'è uno che c'ha il dito vuole entrare, va. Vabbè. Cazzo stiamo dicendo, Manuel. Quei pesci lì vogliono messi questi laghetti così. Più grandi sono e meglio vivono, capito? Ma non ho bisogno di molta cura perché si mangiano anche merma, tutta questa roba qua. Sì, lo so, lo so. Cazzo, ma bisogna scendere dalla cazzo di chiromacche. Ma è male, non si rimane nei chiccoli dalla chiromacche. E dammelo un po' a me, io non ne ho più. Si era di tutti i magnati, i miei. Non me ne è più una. Solo quelle grandi che avevo io sono rimaste, perché quelle non ce la fanno a mettersene in bocca. Ma le magnate un po' un pezzo di guscio, proprio una chicchigliola sopra. Cazzo, queste domande stanno sempre trombando. Quando trombano me ne fanno una ventina a volta. A grandi me le devi dare, piccole se le mangiano. I grandi non mangio, tutte piccole sono, non è più grandi, o se le mangiati. Pure quelle grandi sono mangiate. Io mangio più visto, tutti i miei nodi sono. Meno che me ne dai un po', me ne metto dentro uno salappato. Le chiudo di modo che quando poi diventano grandi le libero. Faccio così. Ma non me le dai. Un po' me ne dai e me le metto nella salappato. Sì, che hanno delle cose, se non mi seguo mai a casa, cioè. Ehi, dove si vai? Ma io piccio che cazzo si dove abita di camera, lungo le ha acciappato tutte. Non ho capito, quando? Quando dovevi prenderti i gambe, il tempo l'hai trovato. Vabbè, ma è dalle la tavaglia, anzi, è dopo di restare quella lì. Te l'hai portata a lavoro. Ah? A lavoro te l'hai riportata. No, cazzo lavoro, a casa l'ho mal lasciato subito. Cazzo lavoro, bravino. Perché ci facevano compagnia? Cazzo lavoro, cazzo devo passare via per lavoro, faccio tronco, tronco da grande. Acciugali. E adesso, quando ti fanno i figli, me li dai un po'. Quale? I gambi. I gamberi, ma mi basta. Allora, come diceva l'allevamento, quello che gli abiti a me c'aveva l'allevamento di gambi, io c'avevo a pisci, c'era solo gambi. Mi fanno i figli e i figli li mette in un acquario e i genitori li lasciano nell'altro, capito? E di modo che poi diventano grandi, quando diventano grandi comincia a bere. Ma se lo so, abbiamo se sta dato femmina, ma a me è basato tutti i maschi. Dai giochi, non se mi conoscono i gamberi, sono maschio femmina. Mi pare che siamo affronditi che si praticamente se sono due maschi, uno diventa femmina e l'altro rimane maschio. E fanno lo stesso figlio. Ah, boh, io mi auguro di sì, speriamo. Cazzo, l'altro giorno erano tutte e tre sulla luce. Quello giallo, quello verde e quello blu notte, il blu scuro rimane. Sono mezzo. Fanno colore nell'acquario, capito? Ci fossero grandi, cazzo, belli grandi. Che cazzo belli grandi? Che cazzo, cazzo ti muovi tutta la roba? Cazzo belli grandi? Ma non dico grandi grandi come i gamberoni, però tipo quelli che trovi quando vai a pescare, perché tu vieni attaccati al molo e cose. Quelli sono già belli. I granchi ci vogliono mettere, lo sai, ma se li mangia i pesci. Quelli morti si mangiano, i granchi io li ho avuti, io ho avuto anche le razze tropicali, ho avuto, io guarda, non c'è pesce che non abbia avuto, ho avuto anche le razze. Ma i granchi non se ne mangia pesci vivi, no, i granchi? No, no, pesci vivi no, ho perso perlomeno. Cazzo non penso, ai paesi. E comunque i gamberi si mangiano i ghisci di muri, i ghisci che stanno in un vuoto, non si li mangiano. Magari il pesce si mangia loro, se è grande si mangia i gamberi. No, adesso questi qua sono cresciuti, i gamberi, che cazzo adesso sono belli. Cazzo prima quando si la danno si vedono le manca, non mai. Beh, erano piccoli, adesso ce l'hai un paio di mesi già. E cazzo, un paio di mesi sì, tre mesi muore, cazzo, sono già grandi, sono già fatto la misura sua. Vabbè. E adesso, quando mi capita che lo sento, me ne ordino una ventina. Me lo dici? Me ne ordino una ventina e me li metto nell'acquario. E prendiamo 20 e 20, ci fa fare lo sconto, però se lo sappi del culo. E soprattutto ce li dà un po' più grandi, no così? Non te ne dà più grandi, questa è quella lì, la, è come i cani, no? Cada due mesi te li danno, non te li dà di 6 mesi, no? E così sono quelli, il periodo che te li deve dare te li dà, se per l'altro di grandi te li fa pagare di più. Ah, così è. Gli allevatori sono così, te li danno piccoli per poi farteli grandi tu. Ma tutti gli allevatori di uccelli, di cose, te li danno piccoli, addirittura gli uccelli, quei pappagalli te li danno che li devi beccare tu, se no non te li date. Vabbè, comunque già sono cresciuti, dai, io mi auguro che gli fa, che fa qualcosina, qualche filo, qualcosa. Cazzo, se li guardi, io ho fatto 13. Ti anche l'acquario. A chi vi faccio dire l'aragosta me ne avevano fatto, ma lo sai quanti? Lui. Io proprio le aragoste, no? Le ho portate a casa, c'è un acquario bellissimo con le piante vere, tutto grande. Ma sono portato queste aragoste e due secondi non c'erano più piante, se ne mangiate tutti gli impianti. Però poi mi hanno fatto i figli. Saranno usciti un 300, una cosa del genere. Quelli che sono riusciti a toglierli perché se li mette nella faccia, no? Se ne accorta mia figlia che era piccolina, papà, c'è i piccolini nella faccia, ma qua stai dicendo, vado a guardare, era vero, ho preso la ragosta, l'ho mossa col dito, gli ho mosso i figli, gli ho fatti scendere nella sala a pasto e poi la lei l'ho liberata, però me ne sono caduti un bene l'acquario, cara. Era tutto bene. Bello, siamo belli. Cazzo, non sai che siamo intenzionati, lo già riprendiamo i guarda qua di 2 ml, cazzo. Tutta la parete mi prendo. Sono intenzionato. Perché cazzo adesso lo vedo piccolino, quello che c'ho io. E sempre piccolino, vedo male. Appunto, quello di 100 litri, poi ho preso quello che ho adesso, 250 litri, 280 litri. Cazzo adesso mi sembra piccolo. No, non è pigliato, ma non vanno, perché te l'ho spiegato che non regge. Non regge, è troppo pesante. E che cazzo me la fottegano se va io su? Ti va a dire un gavettone. Cazzo, yeah. È bello, comunque è bello grande, l'ho visto, è bello, grande è bello. Guarda qui, non so se ci vai tu. Da quella donna che fa diretta di, con gli acquari. Ma quella che va a pescare? No, c'è una, io la seguo questa qua. E questa qua fa diretta ogni sera. Anche poco fa c'era. E spiega agli altri come devi fare, come... E questa mette acqua di rubinetto, mai messo acqua comprata. E c'era questo qui che fa no, ma assolutamente acqua di rubinetto, no, qui là, ma guarda che io gli ho messo sempre acqua e sono più sani di quelli che comprano l'acqua. Perché basta che l'acqua del rubinetto li corrige i metalli pesanti, li annulli col mio condizionatore, i metalli pesanti. Però ci sono gli nitrati, i nitriti, eccetera, eccetera. Un attimo, mi assento. Oggi. Sì. Allora. Sì. E chi si... Ehi, via. Andiamo, vai, andiamo. God, tu sei... Ehi, sto provando il microfono. Ciao, ma ti avevo riconosciuto, cioè, dallo stacco del coso delle... Mi sembravi tu, dallo stacco del microfono, tap tap, che da quel tocco. Però non ero sicuro. Io non ho sentito nessuno. Stavo provando il microfono, sai questi microfoni, intanto già pulili. E allora ho schiacciato. Io. E allora, sto a posto. Tutto a posto. E saputo sì che è morto il figlio di Tore. Sandro, ehi. È un giorno che... Siamo andati anche a trovarlo, l'ho sperato, poverino, vabbè, già, non si è fatto mancare niente, non si è fatto mancare niente, quante volte la buona anima di Tore glielo diceva, lui continuava. Lo so, vabbè, proprio per come era ultimamente, poverino. Lo sai, no? Male, male, aspetta, rispondo al telefono. Avanti, Manuel, ci sei? Cicu, cicu, cicu, lito, cia, cia, cia. Vabbè, io chiudo, dai, ci sentiamo, ragazzi. Devo andare giù. Ciao. Cosa hai detto oggi? Gianni.